Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno. Oggi martedì 13 gennaio, sono le 8:33, passate da qualche secondo. Parliamo oggi di pensioni. Sarà alzata l'età, l'ha promesso il governo, sarà alzata l'età soprattutto per le donne, per portando questo limite dell'età pensionabile verso la parificazione con quella degli uomini. Una discriminazione che l'Europa ha posto all'indice, richiamando appunto l'Italia, e il governo ha ieri risposto dicendo che ci sarà un piano per una riforma graduale e flessibile per allineare il requisito per la pensione di vecchiaia di uomini e donne nel pubblico impiego. Ne parliamo con la professoressa Fiorella Costoris. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei. Fiorella Costoris è docente di economia a Roma, fa parte della commissione di studio, la commissione tecnica voluta dal ministro Renato Brunetta per trovare una soluzione a questa differenza di età, una differenza di età che esiste praticamente da sempre e che però per l'Unione Europea e anche per molti altri, penso, costituisce una discriminazione. Ora si parla tanto di pari opportunità, di eguaglianza, di diritti e di doveri tra uomini e donne, e questa differenza di età pensionabile è vista come appunto una differenza intollerabile nell'ambito delle regole europee che vogliono la parificazione. Però questa differenza ha anche molti sostenitori, perché si dice le donne hanno un lavoro diverso, sono occupate anche in casa, hanno il compito di allevare i figli, e quindi una differenza anche sulle pensioni potrebbe essere giustificata. Questa mi sembra che non sia la posizione del governo e di Fiorella Costoris, professoressa. Effettivamente io non penso che sia attraverso un piccolo privilegio, che poi è un privilegio a metà, come diremo tra poco, che si può sostanzialmente indennizzare le donne di una vita di lavoro fatta di maggiori sacrifici, di minori opportunità, in definitiva di minore carriera. Quindi arriva troppo tardi ed è in un certo senso troppo poco. Bisogna invece essere disposti a pagare gli eventuali costi della parità per averne tutti i benefici, per pretenderli durante gli anni della vita attiva, quando si è giovani, subito dopo le maternità, momento nel quale le donne perdono il passo purtroppo nel lavoro, mentre il tasso di occupazione maschile aumenta con i figli, quello femminile si riduce fortemente. Quindi bisogna fare una serie di cose e nella famiglia e attraverso i servizi sociali e con politiche varie per dare maggiori opportunità alle donne durante la vita attiva e minori protezioni in quella fase, soprattutto dopo, dove servono poco, anche se magari può essere piacevole andare in pensione qualche anno prima. Può essere piacevole, ma qui voglio sottolineare, con tutti i sistemi che noi conosciamo per il pensionamento, che sono quelli retributivo da un lato e quello contributivo dall'altro, chi va in pensione prima paga questa andata in pensione anticipata con un minore beneficio pensionistico annuo, particolarmente con il sistema contributivo che sta andando piano piano a regime, quello introdotto dalla riforma Dini. Sostanzialmente si viene penalizzati due volte se si va in pensione in età minore, perché da un lato si è contribuito meno al sistema e quindi il montante da cui trarre il beneficio pensionistico è minore, dall'altro lato si sta in pensione più a lungo e quindi anno per anno si deve prendere da quel montante un po' meno. Ecco, quindi è un beneficio più formale che sostanziale, un beneficio che in parte si paga con una minore pensione, un beneficio che peraltro nei fatti è anche molto inferiore di quanto direbbe la regola, la differenza appunto di età formale tra i 60 e i 65 anni. Di fatto l'età pensionabile, lei lo dice oggi in un'intervista al Sole 24 Ore, è abbastanza vicina tra uomini e donne. Sì, lo è perché esistono sostanzialmente in Italia due modi per andare in pensione, quello per anzianità, dopo un certo numero di anni di contribuzione, e quello per età, avendo riguardo all'età anagrafica. Ora, mentre gli uomini hanno una vita contributiva più lunga perché hanno una vita lavorativa con minori intermittenze, quindi possono accedere frequentemente alla pensione di anzianità che, ricordiamolo, attualmente richiede sia per uomini che per donne un minimo di 58 anni di età e di 35 contribuzioni, le donne che cominciano a lavorare più tardi, che smettono per varie ragioni più facilmente, che contribuiscono meno al sistema, non riescono ad accedere alla pensione di anzianità e quindi debbono aspettare quella di vecchiaia, che per loro appunto oggi è a 60 anni. Di conseguenza, di fatto, uomini e donne vanno intorno ai 60-61 anni entrambi in pensione, anche se l'età giuridica per il pensionamento è diversa. La posizione che io ho sostenuto già da qualche anno è che bisognerebbe parificare l'età di pensione di vecchiaia delle donne a quella degli uomini e contemporaneamente alzare un po' l'età di pensione di anzianità, perché altrimenti rischiamo che per eliminare una disparità giuridica di età pensionabile fra uomini e donne rischiamo di mandare in pensione le donne per vecchiaia appunto più tardi che gli uomini per anzianità se restassero ai 58 anni, cosa che però non è prevista dalle norme, perché sappiamo che grazie alle norme introdotte dal passato governo Prodi i 58 anni di età e 35 contribuzioni oggi necessari per la pensione di anzianità diventeranno piano piano 59-60, finché nel 2013 saranno 62 anni di età come minimo e 35 contribuzioni. Ecco, un'età che comunque resta ancora abbastanza bassa rispetto alle medie europee, quindi complessivamente un sistema pensionistico di fronte all'aumento dell'età di vita, di fronte all'aumento dell'aspettativa, fortunatamente dell'aspettativa di vita, ecco, ha un adeguamento molto lento di innalzamento dell'età pensionabile. Il fatto che uomini e donne vanno in pensione tra i 60 e i 61 anni forse è un onere per il sistema complessivo italiano ed è un'uscita dal mondo del lavoro di forze che potrebbero dare ancora il loro apporto positivo in un'economia che ha bisogno di trovare gli stimoli per la crescita. Quindi forse una riforma complessiva delle pensioni, se ne parla tanto, però l'Italia ha fatto più passi indietro negli ultimi tempi che non passi avanti, professoressa Costoris. Effettivamente bisogna tener conto dell'aspettativa di vita nel definire l'età pensionabile, ma io ritengo che un sistema buono sarebbe quello di reintrodurre la flessibilità nell'età pensionabile, come già era con la riforma Dini, fu abbandonata dalla riforma Maroni e poi da quella del governo Prodi, come ho detto poco fa, e anziché andare in pensione a un anno definito, a un'età definita, bisognerebbe cercare di reintrodurre un intervallo nel quale ciascuno è libero di andare, di ritirarsi dal lavoro oppure no. Per esempio potrebbe essere, visto che 62 anni sono l'età dell'anzianità a cui si sta arrivando nel 2013, potrebbe essere nell'arco flessibile tra i 62 e i 67 anni, sia per uomini che per donne, sia nella pensione di vecchiaia che in quella di anzianità, ma quella di anzianità ha sue regole diverse. Io penso che questa apparente difficoltà e apparente costo che bisogna pagare ha qualche beneficio, ripeto, in termini di pensione annua che si può ottenere nel restante periodo, e ne abbiamo un gran bisogno, perché non dimentichiamo che le pensioni delle persone che stanno in quiescenza oggi sono molto basse, quindi abbiamo bisogno di alzarle, e invece sappiamo che con i sistemi attuali andremo a diminuirle nei prossimi anni. Dunque è un fatto importante cercare di capire se desideriamo lavorare di più per più anni, ma poi stare un po' meglio in pensione. Un'altra possibilità di cui vorrei parlare è quella di andare in pensione a part-time, come si dice, cioè in questo arco flessibile, per esempio dei 62-67 anni, in cui si può decidere ci si può ritirare, si potrebbe anche decidere di ritirarsi solo per una parte del tempo, quindi si starebbe metà in pensione, per esempio, e metà sul lavoro. E questo renderebbe più graduale e meno difficile l'abbandono del lavoro per i datori di lavoro e per i lavoratori, darebbe maggiore prospettive di benefici pensionistici più alti durante la quiescenza. Ecco, sì, questa è un'ipotesi. Part-time purtroppo in Italia è poco diffuso, anche appunto per la complessità legislativa e per gli oneri conseguenti al part-time. Sentirei un'ascoltatrice, Loredana dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo chiedere riguardo alla contribuzione Ho 51 anni, arrivo quest'anno nei 35 anni di contributi. Pensando all'allungamento della pensione, rimangono i 40 anni stabili di massima contribuzione? O visto che si arriva giovani, verranno anche questi aumentati e allungati? Grazie, lei ha 51 anni, complimenti. Indubbiamente prevedere il futuro è sempre difficile, oltre che complicato e qualche volta anche inutile. Cosa succederà di qui a 5 o 6 anni? Sicuramente appunto è difficile da prevedere, probabilmente qualche ritocco alle norme sulle pensioni ci saranno. Per i dipendenti pubblici il governo l'ha promesso, questo impegno di parificare l'età pensionabile, quindi con tutta probabilità lei dovrà arrivare a 60 anni, ma chiedo anche la professoressa Costoris. Io sono un po' più ottimista per la nostra ascoltatrice, perché attualmente esiste ancora la pensione di anzianità, naturalmente, oltre a quella di vecchiaia, e con 35 contribuzioni la signora probabilmente potrà andare in pensione con 35 contribuzioni oggi, potrà andare in pensione con 40 contribuzioni se non viene cambiata la legge, quindi potrà andare in pensione tra 5 anni e quindi potrà andare in pensione a 56 anni prima della sua età di pensionamento attuale, non parliamo dell'età di pensionamento di vecchiaia che probabilmente avremo a causa della modifica dell'età pensionabile femminile di vecchiaia conseguente a questa sentenza del 13 novembre della Corte di Giustizia. Grazie, vedremo fra 5 anni cosa succederà, intanto lasciamo la linea al traffico. Dietro la notizia. Bentornati a Dietro la notizia, stiamo parlando di pensioni soprattutto delle donne, l'impegno del governo di alzare l'età pensionabile per parificare l'età pensionabile tra uomo e donna, così come richiesto dall'Unione Europea. Ne stiamo parlando con la professoressa Fiorella Costoris, docente di economia all'Università di Roma e che fa parte della commissione che il governo ha istituito proprio per affrontare questo tema. Lascerei però la parola ad Andrea da Cesena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io volevo dire, già le donne sono discriminate in base al reddito, in base a parità di lavoro e di qualifica rispetto agli uomini, lavorano in casa, accudiscono i figli, almeno concediamogli di andare in pensione 5 anni prima, loro quei 5 anni li hanno già lavorati molto per la famiglia. E in più volevo dire una cosa, si fanno le riforme delle pensioni ma non si tiene mai conto dei lavori usuranti. Cioè, non si può pensare di mandare in pensione a 65 anni persone che lavorano, mia moglie lavora in un magazzino di prodotti ortofrutticoli, scarica cassette da 20 kg tutto il giorno, 0 gradi d'inverno, 40 d'estate, io non credo che a 63-64 anni sia possibile fare una vita del genere. Si parla di età pensionabile, ne parlano sempre gente che sta nell'ufficio, nello studio e dicono che a 60 anni si è giovani, ma venite fuori una settimana con noi a lavorare veramente. La ringrazio per questa testimonianza in diretta, indubbiamente, dicevamo anche prima, ci sono delle condizioni di vita e di lavoro, molto spesso anche per le donne, che sono penalizzanti, però si diceva anche prima, e rispondo anche ad alcuni ascoltatori con i messaggi SMS che dicono che si fa poco per le donne durante la vita lavorativa, bisognerebbe fare sicuramente di più durante la vita lavorativa per agevolare la funzione essenziale delle donne, l'assunzione essenziale della famiglia, di produrre innanzitutto, scusate il termine, i figli, ma soprattutto di educarli, di allevarli, di portarli avanti, di realizzare la famiglia che è l'elemento centrale della società. Professoressa Costoris. Beh, sono d'accordo con lei, effettivamente si fa poco su due fronti direi, il primo è quello della famiglia stessa nella quale la divisione dei compiti all'interno potrebbe essere più simmetrica, più paritaria come lo è in tante società avanzate, per esempio del Nord Europa. Io credo che d'altra parte anche le politiche potrebbero aiutare da questo punto di vista, ad esempio il permesso di paternità che esiste anche in Italia e ha una caratteristica diversa da quella che c'è in altri paesi del mondo, e cioè se il padre non prende il permesso per stare a casa con i figli, al di là del permesso dato naturalmente alla madre, giustamente dato alla madre, questo permesso del padre può essere per così dire ceduto alla madre, e naturalmente molti padri italiani lo cedono. si è visto di fatto che i paesi dove si è raggiunta maggiore parità dentro la famiglia sono quelli dove i permessi di paternità sono obbligatori, nel senso che non sono cedibili, e quelli di maternità non hanno la caratteristica italiana di essere un dovere, bensì sono un diritto, magari allungabile nel tempo, magari meglio pagati di quelli italiani, ma sono un diritto. Da noi in un certo senso si è presa una strada diversa. Poi esistono le più generali politiche di conciliazione fra lavoro e famiglia, che penso che giovi ricordare che sono politiche che aiutano naturalmente sia il padre che la madre, non sono necessariamente solo a favore delle donne, anche se di fatto diventano particolarmente a beneficio delle donne, perché le donne hanno il doppio impegno, molto più degli uomini, di lavoro e famiglia quando lavorano. Quindi ci sono tutta una serie di elementi, servizi sociali naturalmente, che sono estremamente importanti e che da noi sono un po' asfittici. Ricordiamo che l'Unione Europea ci chiede per esempio di avere una quota di asili per bambini di età 0-3 anni molto superiore a quella da noi raggiunta, soprattutto in alcune zone del paese, perché non dimentichiamo ancora che il problema femminile è acuto dappertutto in Italia, il tasso di occupazione femminile è il più basso dell'Unione Europea 27 con la sola eccezione di Malta, ma è particolarmente basso, veramente incredibilmente basso nella parte meridionale dell'Italia, per una serie di carenze, tra alcune delle quali appunto ho già citato. Ecco, c'è un ascoltatore con un SMS che qui dice la politica per la famiglia in Italia è troppo limitata, bisognerebbe introdurre una politica fiscale più attiva con il quoziente familiare. Da economista, professoressa Costoris, come può rispondere? Guardi, il quoziente familiare può essere operativamente introdotto in vari modi e naturalmente può dar luogo anche a miglioramenti dell'aliquota fiscale marginale sul reddito femminile, marginale cioè quello che si ottiene sull'ultima parte del reddito che arriva in famiglia, quello delle donne. Attualmente però se non si cambiasse, se non si diminuisse radicalmente l'intera curva delle aliquote, il fatto di introdurre il quoziente familiare di per sé rende il secondo lavoro più tassato e non meno tassato, perché esiste la progressività delle imposte, quindi insomma due redditi a 20.000 euro l'uno danno luogo a un'aliquota di imposta più bassa che un reddito familiare di 40.000 euro. C'è un rischio. Siccome il secondo reddito è femminile, di per sé l'introduzione del quoziente familiare non è vantaggiosa. Certo, uno può naturalmente abbassare l'intera aliquota delle imposte e allora con 40.000 euro familiari si paga di meno, ma le manovre a quel punto sono due, una di abbassamento e l'altra di quoziente familiare. E a quel punto viene sempre in prima fila il fatto che poi lo Stato ha bisogno di soldi e quindi abbassare le imposte complessivamente è sempre una battaglia difficile. Abbiamo ancora un paio di minuti, vediamo se è un'ultima telefonata. Vincenzo da Varese, buongiorno. Buongiorno. Si dica. Sto sentendo cosa diceva la professoressa, direttore. Io sono un ex dirigente d'azienda. All'età di 54 anni ho perso il lavoro per motivi che non sto a dirle e da allora, ormai sono 5 anni, cerco un'attività sostitutiva di questo. Sentendo la professoressa, io sono perfettamente d'accordo con nell'aumentare l'età pensionabile, anzi credo che questa sia una cosa gioco forza che dobbiamo necessariamente fare, però è evidente che c'è uno scollamento tra quello che sta dicendo la professoressa, del quale siamo tutti quanti d'accordo, e la realtà che c'è sul mercato. Io attualmente faccio delle consulenze per il conto di piccole aziende. Non ce n'è che assumerebbe una persona di più di 45 anni. Ecco, mi sembra molto chiaro, mi scusi se devo interrompere, però i minuti scorrono veloci. Professoressa Costori, ci sono dei casi in cui certamente è difficile essere impiegati a una certa età, però il pensionamento forse non è la soluzione, professoressa Costoris. Ma diciamo, quale sarebbe l'alternativa? L'alternativa in una situazione di questo genere è di mandare in pensione più presto le persone e poi non sostituirle per niente nel caso nel quale le aziende siano in difficoltà, oppure sostituirle come si fa nel settore pubblico con il cosiddetto blocco del turnover, cioè assumendo meno persone rispetto a quelle che si avevano prima e per di più a un salario più basso, perché i giovani naturalmente guadagnano meno dei più vecchi. Io credo che ci sia un falso dilemma qui, cioè si pensa che quando l'età di pensionamento diventa più alta allora è minore l'opportunità per i più giovani. Credo che non sia così. Se uno osserva la situazione in Europa, per esempio, dove nei paesi dove l'età pensionabile è più alta, lì c'è anche minore disoccupazione giovanile. Quindi credo che la situazione sia complessa e vada analizzata nelle sue varie componenti. Soprattutto, ecco, in una situazione generale complessiva bisogna certamente avere interesse per i casi personali, casi anche drammatici che possono presentarsi, però in una società che cresce, indubbiamente il lavoro è qualcosa che fa crescere la società e tutti possono dare il loro apporto positivo ovviamente nel lavoro ovviamente se c'è gli ammortizzatori sociali devono altrettanto esserci per le situazioni di difficoltà. Sì, dobbiamo chiudere qui, io ringrazio la professoressa Fiorella Costoris per essere stata con noi, ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio la redazione e l'appuntamento è per domani.